Frosinone è stata lo scorso anno la città italiana con la peggiore qualità ambientale. Lo rivela il rapporto ecosistema urbano elaborato da Legambiente. L'aria che si respira ha livelli medi di polveri sottili oltre il limite consentito. Il tasso di motorizzazione è molto alto, con 73 vetture ogni 100 abitanti. Il 45% dell'acqua immessa in rete si disperde e non arriva ai rubinetti. Il verde urbano fruibile e le piste ciclabili sono a livelli molto bassi. Tra le poche note positive, il terzo posto per pannelli fotovoltaici sugli edifici comunali e una raccolta differenziata in salita dal 4,2 al 6,8%. Su questo fronte Frosinone è comunque solo 94esima. Il sindaco della città, Michele Marini, alla guida di una giunta di centrosinistra, assicura però che quest'anno, con il porta a porta nel centro storico, la differenziata ha già superato quota 12%. Andrea Gagliardi, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma.